Storielle. Storiacce. Di Roberta Giordano. Torna a casa tardi, per cena non hai orari, niente prendi e niente dai, vivi in clandestinità. Adesso piano piano l'ospite di oggi, ascoltatrici e ascoltatori, lo facciamo uscire da questa clandestinità, anche se un po' ci si rifugia e forse è una condizione abbastanza comune, diciamocelo. Però lo facciamo uscire come sempre attraverso tre aggettivi con i quali chiederei a bruciapelo così di descriversi. Prima ancora di presentarlo, naturalmente dalla voce molti l'avranno riconosciuto, ma come cominciamo a uscire da questa clandestinità? Come ti descriveresti in tre aggettivi? So che non è cosa facile. Ma... Passiamo alla prossima domanda, vi prego. Salve a tutti, sono Vinicio Capossela. I due sarebbero quasi aggettivi, Vinicio e anche Capossela. E forse adesso... il terzo ce l'ho, da solo. Ecco, da solo, perfetto, questo è il più aggettivo di tutti, è oggettivante, ecco. Perché da solo è anche l'ultima fatica di Vinicio Capossela, più o meno a 3 anni, no, dall'ultimo, ovunque proteggi. Sì. Quindi ci hai messo un po' di impegno, di tempo, non hai avuto fretta di produrre immediatamente qualcosa di nuovo. E quindi è ponderato questo album. Oh, questo album ha delle radici che affondano molto, molto più in là di questi ultimi 3 anni ed è direttamente poggiano nei vari scatoli di cartone degli abbandoni, delle separazioni, degli addì, dei cambiamenti di destinazione, di luogo, e quindi quando si iniziano ad aprire questi cartoni si sa a volte da dove si inizia e non si sa dove si va a finire. Aprendo questi cartoni siamo finiti fino a Tucson a registrare l'ultimo brano di questo disco, che invece aveva esattamente 5 giorni di vita quando è stato registrato. E dico di questi cartoni, di queste cose, perché questo è un disco che attinge profondamente alla vita, alla tua vita, e a tutte le cose poi che si trovano dai cartoni. Quando si fanno questi generi di pacchi ci si mettono anche dentro giocattoli, lettere. Ed è estremamente struggente poi andarli a riaprire questi cartoni, no? A volte fa molto male, o si no? Si ha bisogno di qualche inno, ecco, davanti ai cartoni, qualche inno che ci faccia tenere alta la guardia, lo sguardo alzato verso il cielo e la mano sul cuore. Gli inni fatti canzoni sono una forma, diciamo così, solenne da applicare alle cose piccole, e questa è un po' la forma musicale che sorregge, diciamo, queste aperture di cartoni. Però, visto che Vinicio Capossela ci ha messo tanto della sua vita in questo album, come anche negli altri album, e ci ha un po' raccontato anche il suo modo di sentire, io direi ricominciamo un po' da capo, ma innanzitutto mi sentirei di descriverti, a proposito dei vari aggettivi, anche come, vabbè, sei stato definito tante volte il regolare della musica, però quantomeno originale, e secondo me nell'essere originale ci vuole anche tanto coraggio. Tu ti senti coraggioso? Sì, mi sento coraggioso. Perché hai lo stesso poi sfondato con questa originalità, con questo tuo modo di essere diverso, però era un rischio all'inizio, no? E ricordiamo che il tuo primo, l'album di esordio, che poi ha vinto anche la Targa Tenco, no? Per il primo migliore album di esordio, è stato all'1,35 circa nel 1990. Dopodiché tu hai continuato un po' con questa tua diversità, che una volta che, tra virgolette, si sfonda, diciamo, c'è sempre il rischio che però i consensi non arrivino, no? Si sia un po' diversi, un po' particolari, non commerciali, che non per forza deve essere una cosa deteriore, però significa anche esplorare altri orizzonti, che non sempre va bene poi. Ma non credo che questo debba veramente stabilire nulla, né essere anti una cosa, né per... Uno fa un lavoro e cerca di essere sincero in quello che fa, e di fare un cammino, no? E questo significa fare che i dischi hanno un motivo d'essere, nel senso che hanno un soggetto e sono un'opera compiuta e sono fatti quando vanno scritti, insomma, e tutto quello che deve venire viene a seguito, ma non è deciso prima, non è per essere diversi o no. Uno cerca semplicemente, e ci mette tutta la vita a capire, a mettere a fuoco la cosa che fa nella maniera più vicina a se stesso, quindi è tutto questa l'originalità a cui uno può ambire, e mettendosi a fuoco, per esempio, questo disco, no, da solo è particolarmente vicino alla mia vita e anche alle forme musicali che amo, senza andarne a prendere diciamo di altre per narrare di cose anche più grandi, come per esempio è stato Ovunque Proteggi, dove abbiamo inventato addirittura il cia-cia-cia mitologico, oppure il rock della Colchide, oppure altre cose. E tu hai messo tanta mitologia poi nei tuoi album, in questo un po' meno. Tu hai dato una definizione un po' particolare, no? Hai parlato di inni che nascono, avvengono per quando la battaglia è già passata, addirittura è stata già persa. È una specie di disillusione o di presa d'atto più rilassata della realtà? No, il tempo stabilisce una distanza dagli eventi quando accadono, e quindi ci sono cose che si scrivono come Muzio Scevola, con la mano nel fuoco, vi parlo del fuoco. Altre cose invece, le vicende, man mano che passa il tempo, possono essere messe a fuoco, e le lacrime si possono così calcificare, diventare parte del viso, diventano rughe, diventano... E ci sono perché ci sono già state, e quindi le cose si mettono a fuoco così, anche quando si ha lo spazio per vedere un po' le vicende come sono andate a finire, come sono. In questo senso la battaglia è già successa, perché non c'è un momento proprio di cui si sta parlando, è proprio tutto quello che è successo fino adesso. Storielle. Storiacce. Siamo sempre qui, ascoltatrici e ascoltatori, Roberta Giordano con voi, e con me c'è quello che si potrebbe definire un talento sognatore, che però sa immergersi profondamente nella realtà, e lo ha dimostrato con tanti album, dall'esordio a Luna 35 circa, sino a Canzone a manovella, e Ovunque Proteggi, e poi l'ultimo album, che è Da solo, con 12 brani inediti, tutti scritti da Vinicio Capossela, tranne l'ultimo, che è ripreso in realtà da un vecchio inno addirittura del 1914. Però Vinicio, nella prima parte siamo partiti dall'album e siamo tornati un po' lievemente indietro per capire tanti aspetti della tua vita, del tuo modo di sentire, di raccontare, eccetera. Ma intanto diciamo, quindi, classe 1965, nato in Germania, sì, da genitori emigranti. Sono un figlio di quella grande... Tutto il mondo conosce gli italo-americani, ma cosa dire degli italo-germani, cioè quelli che non hanno avuto il coraggio di prendere la nave o l'aereo, invece hanno preso soltanto il treno, sono nati diciamo nel nord dell'Europa, invece di Frank Sinatra hanno avuto Adamo, Celentano, questo genere di cose. Io sono un figlio di questa emigrazione degli anni dall'Irpinia, 60. Poi, se non sbaglio, i tuoi genitori dall'Irpinia d'Oriente vengono, esattamente. Parlavamo dell'ultima canzone, iniziamo dall'ultima. L'ultima, per esempio, ha dei risvolti che possono... Venendo a questa radio ho ascoltato molto della programmazione corrente, che è naturalmente tutta molto imperniata diciamo su questa crisi diciamo finanziaria, sì. E tutto purtroppo, e credo che ne avremo un po' da parlare ancora, ecco, eh? Per esempio, ma un sognatore come te, abbiamo detto che ha anche un piede saldo nella realtà, come si destreggia in una realtà diciamo così poco poetica? È un disastro, perché per esempio, no? Questa canzone, Non c'è disaccordo nel cielo, parte dall'assunto che uno mette le cose più preziose che ha nel cielo, guarda sempre al cielo quando mette da parte qualcosa, sperando, no? Che lì ci sia quello che non c'è qua, probabilmente. Non no? Solo, ma anche di ritrovare quello che ci ha messo. E il problema è che, esattamente come nella finanza, uno è certo di aver messo da parte qualche cosa, ma non è assolutamente certo di ritrovarlo. Beh, no, in questo caso le garanzie, anzi forse nella nostra vita di garanzie diciamo in genere non se ne hanno nulla, tranne nella fine, ecco. Esattamente, quindi è sempre però al cielo che ci si rivolge, anche in questi momenti di turbolenze, diciamo, anche quando uno guarda il listino, alza sempre un occhio verso il cielo. Non c'è disaccordo, almeno nel cielo, no? Non c'è disaccordo nel cielo, questo è il titolo dell'ultimo brano. Ma è vero che tu sei stato, allora, quindi nato in Germania, però presto ritornato con i tuoi genitori in Italia, hai vissuto in Emilia Romagna e poi negli ultimi 20 anni, mi pare, tu ti sei stabilito a Milano. È vero che ti ha scoperto e lanciato Francesco Guccini? Io sono cresciuto, sì, a Scandiano, e poi ho fatto le scuole a Modena, e poi dopo, e lì ho anche avuto le mie prime diciamo esperienze musicali. Quando suonavo in piccoli posti e mi esibivo sempre da solo, queste canzoni le hanno ascoltate Francesco Guccini, che era il cantante preferito della mia fidanzata di allora. E allora e così siamo andati a trovarlo una volta in via Paolo Fabbri 43. Io non sapevo, non ero così fan e non sapevo che era un indirizzo così. E lui è stato veramente molto gentile, ha avuto un certo orecchio, e Renzo Fantini, che è il suo produttore da moltissimi anni, è stato il mio vero padrino del mondo dello spettacolo. Con lui ho fatto il primo disco all'1.35 circa, 1990, dicevamo, e a seguire, insomma, e sono stato svezzato proprio da questa famiglia di musicisti di quella generazione, quindi Antonio Marangolo, Jimmy Villotti, Ares Tavolazzi, tutti straordinari musicisti che hanno lavorato da tempo con Renzo Fantini, sia nei gruppi di Paolo Conte che in quelli di Francesco Guccini. Per me Renzo Fantini è una specie proprio di padre, non solo di beh, di bello essere riconoscenti, no, a chi ti ha fatto spiccare il volo, perché poi le ali le devi avere tu. È stato per me uno svezzamento bellissimo, perché proprio sono cresciuto con intorno gente molto capace, molto affettuosa. Ero molto giovane, avevo 24 anni quando ho fatto il primo disco, che però appartenevano proprio al mondo dello spettacolo. Una storiella che mi ha raccontato una volta Fantini, questa di questo signore che ricco, che ha un'azienda, però è pieno di problemi e di pensieri. Una volta incontra uno che era stato suo compagno di scuola, e questo è messo malissimo, dice: "Oh, come ti va te?" E gli dice: "Io faccio lavoro al circo." "E cosa fai al circo?" "Pulisco lo sterco agli elefanti." Allora lui dice: "Ah, beato te che non hai tanto pensieri, io invece ho un'azienda, ma facciamo così, io adesso voglio liberarmi di tutto, ti faccio fare tutto, a te ti lascio il comando dell'azienda, io vado e pulisco la cacca, diventerai..." "No, io proprio me la svigno e tu insomma diventerai ricco, questo e quest'altro." Dice: "Prepara tutti i documenti per dargli una procura." E il giorno della delega questo non si presenta. Lui dice: "Ma e come mai?" Dice: "Eh no, guarda, ci ho pensato ma non me la son sentita." Dice: "Perché, qual era il problema?" "Ma non me la son sentita di rinunciare al mondo dello spettacolo." Anche se era la pupù degli elefanti, era pur sempre il mondo dello spettacolo. E nel mondo dello spettacolo il circo ritorna sempre un po' nel tuo mondo, nella tua musica, nei tuoi album, no? Sì, è un... Tu hai un po' l'aria tra l'illusionista e il mangiafuoco. Più dolce però come mangiafuoco. Ma in generale l'illusione è il grande tema, insomma, dello spettacolo e della... Quando uno fa uno spettacolo in teatro bisogna un po' stabilire col pubblico, ecco, questa sospensione dell'incredulità. Se la si ottiene in vari modi, facendo confidenze. All'inizio ero molto confidenziale, facevo degli spettacoli molto confidenziali dove la gente doveva pensare: questo sarà successo anche a lui? E io facevo in modo che mi fosse successo. Questo era, diciamo, il tipo di sentirsi più uniti, ecco, da questa poi cosa. Complici e poi complici, compresi, ecco, dice: "È successo anche a lui, dunque." Quindi capirà. E quindi erano canzoni confidenziali. Poi siamo passati a delle confidenze più pirotecniche, quindi sono venuti dischi come per esempio Canzoni a Manovella, che sono dischi dove si mette in scena la storia, la geografia e le scienze, ecco. E poi invece un disco come Ovunque Proteggi, che è più sull'uomo, quindi sul mito, la Bibbia, le pietre, l'Ecclesiaste, ancora più, però sempre con confidenza, perché quando parlo per esempio il mio Cristo di legno è quello che in processione a Scicli viene portato sulle spalle, ed è così umano che appena risuscitato è così contento che subito l'hanno portato a mangiare. Questo è l'uomo vivo, per esempio, un pezzo. Quindi sono confidenze dove si è alzato sempre di più il tiro, in un certo senso. E in questo però... ultimo album? Ah, sì, questa è la confidenza qui è... che quasi chiude il cerchio con la partenza. E quindi questa è stata l'evoluzione delle cose. E in questo caso il circo, se di circo vogliamo parlare, quello proprio del sideshow, il vecchio circo Barnum che stava 800, no? Il sideshow era qualcosa che stava a margine, dove venivano presentate delle stranezze, ecco. Ecco a voi la donna barbuta, oppure la mucca a due teste, non so, la pecora unicorno dimenticata da Noè. Erano bellissime, diciamo, disegni che illustravano le attrazioni dentro. Io mi è capitato intorno al rodeo di Austin di vedere questo imbonitore straordinario, dietro la tenda non c'era niente. Io sono andato convinto, e questo è quello che succede spesso nella vita: facciamo dei grandi imbonimenti, diciamo, e qua dietro c'è questo e quest'altro, non è? Quindi una metafora molto calzata che ispira un po' tutta anche la, diciamo, il volto di questo disco, che è una fototessera da Luna Park a cui è stato proprio sparato addosso il sideshow, quasi come per presentare un nuovo tipo di attrazione, the story-faced man, cioè l'uomo con le storie infatti. Che è sulla tua copertina, effettivamente, dove vado con appiccicate queste storie. Ma tu quindi parli anche di grandi temi, parli della vita, della verità, del silenzio, parli dell'America, della clandestinità, come abbiamo sentito all'inizio, poi della guerra, ma anche dell'amore. Tu specifichi amorevole, lo specifichi perché in fondo c'è troppo amore, forse non tanto amorevole. Quando si guarda all'uomo, alle donne, ai grandi malintesi che governano, a quanto si è in grado proprio di immiserirsi, di farsi anche del male, no? In nome dell'amore, infinitamente. Sì, quanti storpi si producono, no? Proprio nel relazionarsi, perché questo alla fine è un disco che comunque tratta del relazionamento. Si possono avere due sguardi: da un lato il cinismo, la disillusione, oppure quel sentimento come di pietà, ecco, che è quella cosa che bellissima, no? Che avvicina le persone. C'era quel passo bellissimo di San Paolo che diceva: se non ho, viene tradotto pietà anche se non è proprio quello il sentimento, questa come compassione, cioè nel senso di sentire la stessa cosa, di essere di forse empatia, questo l'amore, no, amorevole, non è tanto la cosa che priva di sé, quello che cantava per esempio Michelangelo, diceva: come può essere che io non sia più mio? Dio, Dio, chi mi ha tolto a me stesso? Ecco, questa è, diciamo, la passione amorevole, non c'entra con invece la pietà, la compassione, il sentire, ecco, questo amore amorevole a cui penso quando raccolgo anche i frammenti così della mia di esistenza, anche in relazione a quella delle altre persone. Ma che parte ha nella tua vita l'amore invece nei confronti di un'altra persona, di una donna, insomma? È tutto quello che definisce i nostri confini. L'amore per una persona è quello che è come probabilmente quando si fa la scultura a gesso, non si sa se la vera scultura è quella che viene nella forma vuota oppure il pieno che la determina. È esattamente, è l'insieme delle due cose che fa la statua alla fine. Senti, una cosa che uno dei brani che mi ha molto incuriosito di questo tuo ultimo album, che si intitola Da Solo, è Il Paradiso dei Calzini. Cioè, all'inizio ero partita dicendo che sei un irregolare della musica, un originale, quindi coraggioso. Chi poteva pensare a un paradiso dei calzini se non Vinicio Capossela? Io mi chiedo, no? È bellissimo questo. Dove vanno a finire i calzini, secondo te, in paradiso? Quelli spagliati, quelli rigati, quelli che... La cosa che fa più soffrire a me personalmente nella mia vita, il continuo separarsi, la separazione proprio pienamente del procedere. Pare che per camminare per forza dobbiamo lasciare indietro, e la nostra vita è piena di addii che tutto sommato sono anche più dolorosi, forse perfino delle malattie o delle disgrazie. Non c'è una cosa che mi ha fatto così tanto soffrire come in generale il perdere le persone che ami, oppure anche semplicemente la separazione in sé. Per cui viene sempre da pensare che c'è un luogo, un paradiso, qualcosa dove questa pena non si prova più. Non c'è pena se non sei con me. Questa, vedi qua, la lampada di Aladino. Proviamo a capire che cosa ancora Vinicio Capossela potrebbe chiedere. Dopo la tua vita e dopo questo ultimo album Da Solo, che ti auguriamo naturalmente vada benissimo, che cosa chiederesti? Gli chiederei quello che sto per adesso per avere. Esattamente, gli chiederei un grande Wurlitzer, che è una specie di organo fatato. Chiederei Christopher Wonder, il mago che può, diciamo così, cambiare le cose con la parola magica tada. Chiederei una piccola banda di Esercito della Salvezza, delle gran casse, degli strumenti inconsistenti come quelli del tuo album. Inconsistenti, esattamente, mettere in scena tutto questo e fare uno spettacolo solo in nome dello spettacolo, chiamarlo Solo Show e invitarci tutte le persone che in qualche modo vogliono bene alle cose a cui credo di voler bene anch'io. Allora posso venire anch'io a vederlo? Sta naturalmente alla tua responsabilità. Grazie Vinicio Capossela. Grazie. Ciao, a Vinicio. Tutti.